Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria in tempi di coronavirus, diciamo che i temi oggi sono sostanzialmente due, sul fronte nazionale, ma con una ricaduta anche sul fronte europeo. Il primo che affronteremo dopo le 18 è il Consiglio dei Ministri, convocato per le 17, in cui dopo l'accordo arrivato nella notte sulla regolarizzazione dei migranti e anche le coperture economiche ha aperto la strada all'accordo, dicevo, all'approdo del decreto rilancio, ex decreto aprile, ex decreto maggio, al Consiglio dei Ministri di oggi. E l'altro tema è quello riguarda i 55 miliardi, è una misura che vale 55 miliardi e mobilita 130 miliardi di liquidità. Così rispondo subito a un ascoltatore al 349-238-6666, è da qui che poi capiremo quanto arriva per le partite IVA e i lavoratori autonomi per il mese di aprile. Per ora sono arrivati, a chi sono arrivati, 600 euro del mese di marzo, e adesso in questo decreto c'è anche la parte, la copertura che riguarda sia le partite IVA che la cassa integrazione e anche il bonus babysitter. Per quello che riguarda invece i fondi alle imprese, quindi i prestiti alle imprese, quello è un altro tema e torneremo a dare un aggiornamento perché non molliamo il colpo, soprattutto sui prestiti fino a 25.000 euro pari a 100.000 euro di ricavi, cioè 25%, perché lì sono garantiti al 100% dallo Stato e a mio avviso le banche, non tutte, per carità, ma un po' di ostruzionismo lo fanno. Abbiamo anche chiarito due giorni fa che c'è anche un tema di malleva e quindi di copertura, perché non è chiaro che cosa capiterebbe nel caso di fallimento dell'impresa se il dirigente o il direttore bancario che ha dato il finanziamento può essere accusato di aver fatto un concorso, cioè di aver prestato i soldi a chi non era meritevole di credito. Però temo, da quello che leggo, dalle mail che ci arrivano, che non sia solo questo il problema. L'altro fronte riguarda invece la fase 2 e quindi quella, per capirci, non del 4 maggio ma del prossimo 18 maggio. È importante perché da un lato tutte le indicazioni arrivate anche nei giorni scorsi vedono abbastanza certa la possibilità di un'anticipazione delle aperture, quelle previste per il primo di giugno, e quindi bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici e palestre. Non si capisce ancora, o meglio, ci sono delle direttive, ma non si capisce ancora quali regioni apriranno e quali no. È esclusa da tutte le indiscrezioni una possibilità di mobilità interregionale. Se ne parlerà dal primo o forse dal 16 di giugno, più probabilmente, soprattutto per le regioni. È giusto che le regioni non vengano trattate tutte nello stesso modo, ripeto, lo fa anche la Spagna, lo fa anche la Francia, ci sono regioni che hanno un tasso di ancora di contagi, di ricoverati in terapia intensiva alto. Non si capisce se però, lo dico in maniera molto diretta, se Lombardia e Piemonte potranno essere nel gruppo delle regioni che aprono, che anticipano l'apertura al 18 maggio. Questo si collega però all'elemento che è in discussione adesso, oggi in Europa, ma riguarda anche l'Italia, e mi riferisco alle normative europee per le riaperture dei luoghi turistici, diciamo così. Perché mentre Bruxelles oggi ha diramato una nota su come dovrebbero attrezzarsi le aperture, per esempio distanza tra un metro e mezzo e due metri in spiaggia, e poi ancora c'è un'indicazione europea in cui non raccomandiamo posti vuoti sugli aerei, non raccomanderemo in maniera specifica di avere dei posti vuoti sugli aerei, distanziamento fisico di 1,5 metri, 2 metri, mascherine, protocolli di pulizia e disinfezione per consentire a hotel, campeggi, bed and breakfast, strutture ricettive, bar, ristoranti, spiagge, piscine di riprendere le loro attività. Queste sono le indicazioni che arrivano, le linee guida dettate dalla Commissione Europea, poi ognuno ogni paese dovrà applicarle, collocarle. Dubito che possano essere meno restrittive di queste, perché andrebbero contro le linee guida della Commissione Europea. Tutte le strutture turistiche poi dovrebbero indicare ai clienti rigorosi comportamenti da seguire, tra cui l'igiene delle mani, facilitata da appositi disinfettanti, l'uso delle mascherine. E poi l'Unione Europea dice riaprire le frontiere all'interno dell'Unione in paesi che hanno dati simili sul virus. E questo è l'altro aspetto, cioè mentre cerchiamo di capire le linee guida dell'Unione Europea su appunto hotel, campeggi, strutture ricettive, ristoranti e bar, e mentre cerchiamo di capire se la fase 2 potrà essere anticipata da tutte le regioni oppure solo da alcune, c'è altri paesi si stanno muovendo in un altro modo e cioè stanno creando dei corridoi tra di loro. Penso soprattutto alla Croazia e alla Grecia, che hanno avuto pochissimi casi oggettivamente, ma anche il Portogallo, e vogliono arrivare ad accordi, diciamo. La Croazia ha avuto 2200 casi, la Grecia 2700 casi e 150 morti, la Croazia ha avuto 2200 casi e 80 vittime, Malta 500 casi e 5 decessi, e il Portogallo, che di casi ne ha avuti 27.000, ha avuto 1160 morti. Non vogliono essere messi sullo stesso piano di Italia, Spagna, immagino anche Francia. Sono paesi che hanno un contributo del turismo più forte dell'Italia sul PIL. Ma poi Austria e Germania hanno annunciato che dal 15 giugno riapriranno le loro frontiere. L'Austria ha detto ancora presto, come avete sentito nei nostri GR24, per aprire le frontiere con l'Italia. La Grecia ha raggiunto un accordo con Israele per un protocollo sanitario di accoglienza. Qual è il tema? E c'è una specie di alleanza tra Australia, Norvegia, Austria, Bulgaria, Danimarca, Repubblica Ceca, Singapore e Grecia per studiare patti bilaterali, diciamo, con regole condivise. Il tema è evitare in questi corridoi la quarantena, lo capisce anche un bambino, nel senso che se tu obblighi chiunque arrivi da un altro paese a fare 14 giorni a casa, il turismo te lo scordi, nessuno arriva in un altro paese per chiudersi in casa, a meno che non sia una villa con piscina particolarmente bella, ma pure lì la vedo dura, in quarantena. Ecco perché vanno avanti alcuni paesi con casi, contagi simili, con un'idea di corridoi. Questo è molto preoccupante per noi, perché è ovvio che non possiamo, noi la Spagna, ma io parlo per l'Italia, è vero che i casi sono molto diversi, ma non possiamo restare tagliati fuori se poi alcuni paesi si mettessero d'accordo con accordi bilaterali. Parleremo di questo in apertura, anche perché all'Istat risulta che tra le 800.000 imprese ancora chiuse dal 4 maggio, la stragrande maggioranza, come prevedibile, riguarda proprio alberghi e ristorazioni, hotel e ristoranti. L'83% delle imprese è ancora chiuso, e questo nonostante gli alberghi possano riaprire se vogliono, ma i ristoranti possono fare, oltre che il delivery, anche l'asporto. È immaginabile, appunto. Complessivamente nel settore commerciale risultano sospese ancora il 25% delle imprese. E poi l'allarme della Confcommercio, che dice quest'estate solo il 20% degli italiani andranno in vacanza. Io invito a usare molta prudenza su questo, perché ritengo, non perché non possa essere possibile, ci mancherebbe, ma ritengo molto difficile fare una previsione in questo momento, quando non sappiamo ancora i dettagli sulle riaperture, i dettagli delle aperture regione su regione, i dettagli sulle prenotazioni. Per cui 20% è forse chi in questo momento è certo ad andare in vacanza, però attenzione a dare cifre in un periodo ancora in cui l'incertezza è totale. Comunque 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Mi scrivono alcuni ascoltatori, ma a distanza di 2 metri nei ristoranti varrà anche per i nuclei familiari? No, c'è una richiesta di Italia Viva che dice di andare in deroga quando è un nucleo familiare. Mi sembra anche abbastanza qui di buon senso. Un nucleo familiare sono quattro persone, che senso ha separarle da un tavolo all'altro? Non ci va nessuno al ristorante. Oddio, qualcuno potrebbe anche dire che è l'unica volta che va al ristorante con sua moglie, però in generale uno tende ad andare al ristorante per stare vicino, non per stare separato, se no se ne sta a casa, grazie, arrivederci. E quindi c'è, ho visto su questo l'emendamento di Italia Viva che chiede appunto la deroga per i nuclei familiari. Immagino che si arriverà a un'altra certificazione, penso che sia impossibile, anzi sarebbe sbagliatissimo trasferire ai ristoratori l'obbligo di verificare se sei nucleo familiare oppure no, ci manca solo questa. Dicevo 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook, la borsa. Allora, le borse oggi sono penalizzate soprattutto dagli Stati Uniti, non perché il Dow Jones sia l'indice peggiore, meno 1%, ma perché il numero della Fed non ha indicato la strada dei tassi negativi, non l'ha citata, e ha detto che l'economia americana ripartirà una volta che il virus sarà sotto controllo. Ancora, ha detto Powell, potrebbero esservi ulteriori aiuti di bilancio all'economia, costosi ma ne varrebbe la pena, e ha detto esplicitamente tassi negativi, i tassi negativi, cioè tassi sotto zero, non è un'ipotesi che stiamo valutando, anche se ha aggiunto che le prospettive economiche degli Stati Uniti sono molto incerte e i rischi a ribasso sono significativi. Dunque, alcuni mi scrivono del tema dello scontro sulle regolarizzazioni dei lavoratori cosiddetti invisibili. Ne parleremo dopo. Io veramente capisco tutto, ma non ho capito come si faccia a bloccare un decreto da 55 miliardi per... non ho capito, lo dico con massimo rispetto dei 5 Stelle, quale fosse il tema, cioè evitare la sospensione e l'estinzione dei reati di favoreggiamento all'immigrazione assolutamente caporalato. Bene. Io però parto da un dato, scusatemi, non siamo in una condizione normale, c'è bisogno disperato, abbiamo visto stime di 300-400 mila persone necessarie sui campi, abbiamo avuto ospiti che ci raccontavano come i lavoratori regolari erano rientrati nei loro paesi d'origine quando è scoppiato il coronavirus e quindi stavano già seppellendo interi campi di soprattutto di verdura, e adesso è la stagione delle cosette primizie, ciliegie e fragole, per evitare anche che i prezzi schizzino oltre il livello che hanno già fatto. Non mi sembrava, non stiamo imbarcando nuovi immigrati, stiamo, l'ipotesi era di regolarizzare per 6 mesi quelli già presenti sul territorio. Ho letto la paura che questo potesse essere un regalo alla Lega. Adesso va bene tutto, la politica continuerà a fare la politica, però c'è una situazione leggermente più eccezionale adesso rispetto al passato, perché se uno deve andare avanti coi tatticismi, blocco quello perché ho paura che la Lega mi superi a destra, non ne usciamo. Tra l'altro, in questo modo non hai bloccato solo una misura sulla regolarizzazione temporanea hai bloccato un intero decreto da 55 miliardi. Non so, se vogliamo immaginare che tutto sia come prima, ancora, che si poteva bloccare un decreto per posizionamenti tattici politici che ci potevano stare prima, ma non quando siamo messi in questa situazione. Ho letto un'analisi di chi dice c'è troppi pochi esponenti del nord o del nord produttivo nel governo, non so se sia questo il motivo, però sicuramente mi sembra che arrivare ai tatticismi sia nei rapporti di forza nella maggioranza sia anche nei rapporti di forza interne ai 5 Stelle bloccando un decreto a 55 miliardi, avrei detto la stessa cosa se l'avesse fatto il PD, la Lega, Italia Viva, mi sembra oggettivamente un azzardo per non dire altro. Mentre ho visto che è scomparso il dibattito, ma non voglio tornarci adesso, da un lato il tema del quota 100, perché se qua dobbiamo tirar fuori i soldi da qualche parte, ci fu quella famosa manovra del governo giallo-verde che aveva due pilastri, quota 100, che secondo me è un lusso che non possiamo permetterci in questo momento, e dall'altro il reddito di cittadinanza, che abbiamo sempre difeso nella sua caratteristica di welfare, cioè di misura di sostegno e misura sociale, che abbiamo sempre criticato nella sua misura invece di politica attiva per il lavoro. E anche lì posso sapere i 2000 navigator, quasi 3000, che cosa stanno facendo in questo momento? Posso sapere se, visto che è stata levata l'obbligo di rispondere perché c'era coronavirus, tutti quelli che hanno reddito di cittadinanza, se possono essere utilizzati per qualche altra attività? Cioè, voglio dire, o il problema sono i lavoratori che erano già in nero prima, lo dico anche ai 5 Stelle, che hanno una forte presenza elettorale al sud, lo sanno benissimo anche loro, che non è che il nero sia nato adesso, il che non vuol dire giustificarlo, ma vuol dire che se tu cerchi una regolarizzazione di qualche tipo, comunque fai emergere il nero e porti anche qualche lira nelle casse dello Stato, perché c'è comunque anche un gettito per lo Stato. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti con le altre notizie. Andiamo ai dati sulla produzione industriale a marzo. Io non so se ha un senso continuare a dare sto bollettino in generale. Comunque l'Italia ha avuto un crollo della produzione industriale del 29%, l'Europa è crollata dell'11%. No, scusatemi, solo il Lussemburgo ha fatto peggio dell'Italia, meno 32, l'Italia meno 28, però insomma, il dato è andato, destinato forse a essere il peggiore, vediamo come andrà a aprile, temo che aprile sarà anche peggio. Per quello che riguarda la riapertura delle frontiere, l'Austria ha riaperto i valichi minori ma non con l'Italia. Berlino ha detto che manterrà i controlli con Francia, Austria e Svizzera fino al 15 giugno e ha detto che è presto per aprire i confini con Italia e Spagna. Il Belgio, che è il paese, se non ricordo male, più colpito come percentuale tra morti, contagiati e numero di persone, ha detto che tutte le attività ricreative verranno vietate fino al 30 giugno. Ancora, e quindi vedete che la situazione è molto, molto chiaro che se l'Austria mantiene i controlli fino al 15 giugno, però non è un blocco delle frontiere con Francia, Austria e Svizzera, Berlino volevo dire. Andiamo all'Italia, come va il fondo di garanzia? Allora, sono arrivate a 175.000 le domande per un importo di 8 miliardi e 700 milioni pervenute al fondo di garanzia tra il 17 marzo, data del decreto Cura Italia, e ieri. Lo ha comunicato il Medio Credito Centrale, spiegando che di queste domande 173.000 sono pervenute proprio ai sensi del Cura Italia, o meglio, praticamente su 175.000, 150.000 chiedono finanziamenti fino a 25.000 euro, quelli con la copertura al 100%. E vale in totale 3 miliardi e 150 milioni, per i quali l'intervento del fondo è concesso automaticamente e possono essere erogati senza attendere l'esito definitivo dell'istruttore da parte del gestore. Lo dico anche alle banche che continuano a rispondere: no, devo aspettare l'istruttore. Lo dice il Medio Credito Centrale. Oggi ha aggiunto i dati anche il Ministero dello Sviluppo Economico. La direttrice generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, Laura Aria, in un'audizione alla Commissione parlamentare ha ricordato come ci sono state una media di 8.500 domande al giorno, con punte anche di 12.000-20.000 domande al giorno. Il 78% delle garanzie è stato rilasciato alle microimprese, il 18% alle piccole, il 2,5% alle medie e lo 0,2 alle medio-grandi fino a 500 dipendenti. Le più rappresentate sono le imprese diverse dalle ditte individuali, il 64%, poi le ditte individuali. Le regioni al primo posto sono Lombardia 21%, Lazio 10%, Piemonte 7,5%. E intanto appunto la Confcommercio mette in guardia che se dovesse esservi un crollo del 10% delle imprese vorrebbe dire 270.000 con 420.000 posti di lavoro a rischio. Ancora, per quello che riguarda il Tribunale dell'Unione Europea, ha respinto i ricorsi delle compagnie aeree EasyJet, Volotea e Germanwings contro la decisione della Commissione Europea che aveva dichiarato illegale l'aiuto concesso all'Italia a favore di diverse compagnie aeree che servivano la Sardegna. In questo momento però non mi sembra l'emergenza sulla Sardegna che sia questa. Però vedremo alle 18 come va il Consiglio dei Ministri. Faccio notare che sulla regolarizzazione di cui parlavo prima la Coldiretti dice: attenzione, non basta, servono anche i voucher. Altra cosa che è stata eliminata, poi parzialmente reintrodotta dal vecchio governo giallo-verde, due errori clamorosi: uno, eliminare i voucher, e l'altro, a mio avviso, poi lì c'era stata messa una pezza, eliminare gli incentivi per l'industria 4.0 con iperammortamenti e superammortamenti. Si fa per dire. Continua invece la polemica tra i farmacisti italiani e il commissario Arcuri. Ha detto il Marco Cossolo, presidente nazionale di Federpharma: era giusto imporre il prezzo calmierato alle mascherine, ma andava fatto prima e non a mercato in corso, perché è chiaro che a mercato in corso il meccanismo non funziona. Ormai sono. Al di là della polemica tra Arcuri e Federpharma, a me interessa capire se poi queste mascherine stanno arrivando. Guardate, proprio in questo momento c'è una notizia per cui Arcuri, il commissario Domenico Arcuri, si è detto disponibile a fornire un'integrazione economica sui costi delle mascherine che verranno acquistati dai distributori dei farmacisti al più basso prezzo possibile sul mercato. Quest'ultime saranno poi vendute dalla farmacia a 50 centesimi più IVA. Quindi un nuovo accordo, se ben capisco, nel caso il farmacista l'acquisti a un costo più alto, verrà fornita un'integrazione economica da parte del commissario. Forse allora si poteva pensare a un prezzo diverso fin dall'inizio. Io non faccio né il commissario né ho intenzione, ma ci mancherebbe. Faccio notare che Francia e Spagna, due paesi molto simili a noi come costo della vita e com'è, le hanno 96 centesimi più IVA. Allora forse hanno sbagliato Francia e Spagna, o forse noi siamo partiti troppo bassi, siamo venuti tardi e troppo bassi. Allora, andiamo avanti, dai. Il ministro Boccia ha detto che le linee guida sulla fase 2 ci sono complete, saranno trasmesse oggi alle regioni, questa sera alle regioni, indicazione che il governo dà per una tutela rigorosa ed esclusiva del lavoro. La mobilità tra le regioni non partirà prima di giugno, e oggi, questo è sempre Boccia, altri esponenti del governo hanno detto forse dal primo di giugno sarà possibile la mobilità tra le regioni e anche dalla Lombardia. Però Zai ha detto che la regione Veneto vuole applicare, sta facendo una battaglia civile serena perché non siano applicate le linee guida dell'INAIL o che siano applicate solo in mancanza di alternative, perché se si seguono la lettera delle linee INAIL alcune attività non riaprono più. La Liguria sta valutando deroga al distanziamento nei ristoranti, di ridurre le indicazioni per gli stabilimenti balneari rispetto ai 5-4 metri e mezzo di distanziamento a 2 metri e mezzo e 3 metri, questo rispetto alle linee guida dell'INAIL. Adesso io spero però che non vi sia la giungla tra ristoranti, perché decidiamo la distanza. No, e poi cerchiamo e manteniamo, non è che adesso ogni regione che vai distanziamento che trovi, eh? Va bene, la borsa, non ho detto la borsa, avete ragione, do l'aggiornamento della borsa. Allora, molto forte di Assori in più 7,5, A2A più 2,20, Mediolanum più 1,90, Recordati più 1,60, Male Xor, la controllante del gruppo Fiat, meno 6,90, Tenaris meno 4,20, Mediobanca meno 4, Fineco meno 3,80, come Atlantia e Poste Italiane, il 3,60 lo perde Unicredit, il 3,5 Steam Microelectronics, Prismian, il 3,20 Ubibank e Nexi, Leonardo meno 3 come Biperbanca, il 2,80 lo cede Buzzi Unice e Fiat Chrysler e anche Moncler. Complessivamente Milano adesso perde il 2%, Parigi perde il 2,90, Francoforte il 2,5, Londra l'1,20, il Dow Jones meno 1,30%. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. E allora parliamo di turismo inteso come linee guida dell'Unione Europea, accordi bilaterali che stanno nascendo, corridoi tra paesi e paesi, e poi invece le linee guida che stanno emergendo per la fase cosiddetta 2. A mio avviso qui viaggiamo in un'idea di raccomandazioni che non sono vincolanti. Mi sembra un po' come quando il governo si è molto affidato all'autodisciplina di noi italiani per la fase 2, cioè i tamponi non si sa ancora perché non ci sono i reagenti, le mascherine stiamo polemizzando tra alcuni farmacisti da 4 giorni, le regioni andranno in deroga sui distanziamenti nei ristoranti, non ho ben capito come possono fare, perché allora la deroga vale anche per che cosa? Anche un metro, allora, anche mezzo metro. Tutto è lasciato all'autodisciplina degli italiani, e cioè che notoriamente non sono un popolo famoso, sono famosi per la creatività, per tante altre cose, non per la disciplina, ma per all'autodisciplina degli italiani. Ecco, mi sembra che anche l'Europa si comporti con i singoli stati nello stesso modo, è l'autodisciplina, perché le linee guida che sono arrivate oggi sono raccomandazioni agli stati, e sono raccomandazioni su quanto dovrebbero essere distanti, distanziamento fisico di 1,5 metri, 2 metri, mascherine, protocolli di pulizia e disinfezione per consentire a hotel, campeggi, bed and breakfast, strutture ricettive, bar, ristoranti, spiagge, piscine di riprendere la loro attività. Tutte le strutture turistiche dovrebbero indicare, io adoro questi condizionali, in sto periodo adoro i condizionali, dovrebbero indicare ai clienti rigorosi comportamenti. Se non lo fanno, che succede? Ti bacchettano le mani, tra cui l'igiene delle mani, l'uso delle mascherine e quant'altro. Poi l'Unione Europea non raccomanda, non è che impone, non raccomanda i posti vuoti sugli aerei, che vuol dire ognuno faccia un po' come cavolo gli pare. Ryanair tutti ammassati, ma le compagnie di bandiera magari invece a 2 metri, ma lo scoprirai solo volando, per parafrasare una vecchia canzone di Battisti. Allora occorre, suggerisce la Commissione Europea di vietare la vendita di cibo e bevande a bordo dei mezzi. Vabbè, ho capito, fosse questo il problema. E poi dice che i voucher viaggi siano garantiti dagli stati, e che sostanzialmente si riapra, dice, riaprire le frontiere tra i paesi simili sul virus. Mamma mia, che casino. Allora, Marina Lalli, vicepresidente di Federturismo Confindustria, buonasera. Buonasera a lei. Resti con noi, ho il meteo e la pubblicità, poi cerchiamo di capire le vostre preoccupazioni tra le linee guida che sono raccomandazioni dell'Unione Europea, quello che si sta capendo dalla fase 2 del governo, e poi ho visto anche stime, a mio avviso quasi troppo pessimistiche, di Confcommercio: solo il 20% degli italiani potrà andare in vacanza. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. A 7:40 minuti, vedo una nuova agenzia sulle mascherine. Allora, Dov'è? Adesso c'è un accordo con i farmacisti per arrivare a una fornitura. Se riuscissi a trovare l'agenzia, ve lo darei anche con maggiore precisione. Vabbè, adesso la ricerco io tra un attimo. Allora, dunque, sì, ci saranno 9 milioni di mascherine che arriveranno a maggio, a partire dal prossimo lunedì. I distributori le associazioni dei distributori sono impegnate ad approvvigionare le farmacie con una fornitura di 9 milioni di mascherine a maggio, dal prossimo lunedì di 20 milioni di mascherine la settimana a partire dal mese di giugno. Il commissario si è impegnato a continuare a integrare gli approvvigionamenti delle farmacie con 10 milioni di mascherine nel mese di maggio a partire da domani. Adesso basta che arrivino, però non ci sto capendo più una mazza su queste mascherine. Basta che arrivino in farmacia e che arrivino al prezzo, a questo punto deciso, visto che si è deciso che fossero 50 centesimi più IVA. In Lombardia bar, ristoranti, ma anche estetisti e parrucchieri potrebbero riaprire in Lombardia già dal 18, o almeno potranno farlo tutti quelli che rispettano i requisiti previsti dalle nuove regole, a partire dalla misurazione della temperatura all'ingresso. Questo è l'orientamento della regione, che sta attendendo tutti i protocolli e la valutazione del comitato tecnico scientifico, che dipende dall'andamento dei contagi al 4 maggio. Mentre vedo che il ministro Catalfo adesso, per far fronte alle richieste di manodopera in agricoltura, ho inserito nel decreto che approveremo nelle prossime ore una norma che consentirà ai percettori di reddito di cittadinanza, di NASPE o di altri ammortizzatori sociali, di accettare una proposta di lavoro senza perdere il diritto al beneficio. Cioè potranno andare a raccogliere e andare nei campi anche mantenendo il reddito di cittadinanza. Non mi sembra una cosa sbagliata, Cioè, tra uno che lo becca e tanto non può prendere un lavoro, e uno che lo prende, almeno va a salvare pezzi della nostra agricoltura, non dico che l'avrei resa obbligatoria, però un pensierino su quanti rifiuti puoi fare l'avrei fatto. O aspettiamo lavori che non ci sono, che arrivino offerte di lavoro che non ci sono. Va bene, torniamo al turismo, come se fosse facile. Vicepresidente Federal Turismo, Confindustria Marina Lalli, è più preoccupata da questi accordi bilaterali che stanno partendo tra Grecia e altri paesi, ricordavamo prima le aperture per esempio Austria su Germania, o è più preoccupata da non capire ancora bene quali saranno le misure imposte per ristoranti, bar e soprattutto poi alberghi, bagni, diciamo, e spiagge? Guardi, io onestamente sono molto preoccupata da entrambe le cose, ed è quella la vita in cui ci troviamo oggi noi operatori del turismo, perché questa storia europea in realtà sembrava in qualche modo superata, perché all'inizio la Comunità Europea giustamente aveva detto che non si dovevano fare accordi tra stati, ma doveva essere una decisione che valeva per tutta l'Europa. Invece oggi, poi, come ha giustamente lei prima sottolineato, con tutti questi condizionali si mette che si scoraggia, però in qualche modo non è vietato, e quindi a questo punto chi è più veloce nel fare le norme, e in questo ci ritroviamo con il secondo punto della sua domanda, evidentemente avrà la possibilità di chiudere e stringere accordi prima, perché tra paesi che fanno lo stesso tipo di operazioni e mettono in campo le stesse regole per la fase 2, evidentemente c'è una velocità nel capirsi più ampia, una chiarezza e anche una sicurezza maggiore tra le persone che vogliono scambiare la loro residenza tra un luogo e l'altro, anche se per pochi giorni e per i giorni di vacanza. E quanto alle regole, questo è un problema serissimo, cioè le imprese del turismo oggi sono chiuse e non sono neanche imprese che si aprono da un giorno all'altro. Certo. Quindi c'è bisogno di una preparazione chiara, e queste raccomandazioni, questo si deve stare a questa distanza, però si può anche fare così, servono solo a lasciare nell'incertezza l'imprenditore, che poi alla fine si dovrà assumere tutte le responsabilità del caso, perché anche le regolamentazioni regionali, le delibere che stanno uscendo, nel momento in cui ci sarà un problema, io non credo che la delibera regionale potrà valere su quella nazionale. E quindi alla fine comunque l'imprenditore si sarà assunto. Beh, diciamo così, in un paese serio, visto che il coronavirus ha dati molto diversi da regione a regione, ma poi non distingue quando ti colpisce nella sua diffusione, in un paese serio, secondo me tu come governo dovresti dire queste sono le disposizioni, scusatemi, minime. Poniamo 2 metri di distanza, leggo l'indicazione dell'Unione Europea, 1,5 metri, 2 metri di distanza è l'indicazione minima. Poi la regione può andare in deroga con elementi più restrittivi, ma non può andare in deroga con elementi meno restrittivi. Voglio dire, la Liguria che dice noi andremo in deroga, dove cavolo è che ce l'avevo la notizia, andremo in deroga adesso devo riprenderla. Attenzione, perché io vorrei capire come fai ad andare in deroga, cosa metti a meno di 1 metro, a 1 metro, e come lo decidi? E ha ragione anche lei nel dire attenzione, perché poi se capita un caso, Dio ce ne guardi, ma insomma di contagio, chi ne risponde? Il gestore che ha applicato la Regione Lombardia, quando la direttiva invece nazionale ti diceva no, massimo, minimo 1,5 metri, 2 metri, per cui vorrei capire come fa la Regione Liguria, per esempio, a dire che potrebbe dare indicazioni meno restrittive in deroga rispetto alle linee guida dell'INAIL, era di ridurre l'indicazione per gli stabilimenti balneari rispetto ai 5-4 metri e mezzo di distanziamento. Ma voglio dire, diamo indicazioni uguali per tutti, il contagio è uguale per tutti nella sua modalità. Veniamo invece ai voucher, perché se ho ben visto, Bruxelles ha detto sui voucher, che adesso devo ritrovare anche quella, che devono essere sostanzialmente a carico dello Stato. Adesso ritrovo l'agenzia, l'ipotesi appunto di avere un fondo, diciamo, per i singoli, per chi volesse sfruttare le strutture turistiche. La vostra posizione qual è? Allora, sulla parte dei voucher noi abbiamo apprezzato il fatto che in realtà il governo italiano è stato forse il primo a dare una chiarezza in questo senso, quindi lasciando la liquidità nelle imprese proprio per riuscire a far comunque mantenere per un anno la possibilità di viaggiare a chi l'aveva acquistato e poi magari chiedere il rimborso alla fine dell'anno, ma non durante. E quindi in questo l'Europa sta seguendo quello che comunque l'Italia aveva già deciso, e perché comunque la parte di tutta dei tour operator, del viaggio aereo, è un problema molto serio. Notizia di ieri sera, si sono coalizzate le low cost per far nascere questa volare per l'Italia, vogliamo per l'Italia, ICALS, quindi Ryanair, Volotea, Vueling, EasyJet sono adesso insieme, che comunque rappresentano il 50% del traffico aereo italiano a corto raggio, e quindi bisogna dare la possibilità a queste che portano turisti italiani in Italia di avere anche una tranquillità di non dover rimborsare tutto ciò che già era stato venduto, perché altrimenti vanno tutte in fallimento queste aziende, inclusi i nostri tour operator importanti italiani. Allora, giustamente un ascoltatore mi fa notare che guardate che è impossibile derogare le norme INAIL, ci sono anche sanzioni penali, ma infatti ha ragione, perché io immagino un datore di lavoro che ha i bagnini piuttosto che i camerieri e i clienti che va a derogare perché gliel'ha detto la Regione Liguria, non ce l'ho con Toti in questo momento, ma attenzione, perché un conto era anticipare, o è stato anticipare, poi avete visto che la Calabria ha perso il ricorso, l'Alto Adige ha un ricorso, anticipare di una settimana le riaperture con però tutte le procedure di sicurezza disposte dall'INAIL, nessuno andava in deroga sulla distanza, sulla mascherina, su quant'altro. Altra cosa è dire voglio andare in deroga anche sulle, una volta riaperto, anche sulle procedure che tu hai stabilito, mi sembra impossibile, perché espone il datore di lavoro e quindi l'imprenditore a un rischio enorme in caso di causa, perché tu non hai rispettato le normative INAIL, non so se se ne rendono conto In regione. Allora, sui voucher, la Commissione Europea, ho ritrovato l'agenzia, dice che l'assicurazione deve essere garantita dagli stati in caso di insolvenza e quindi un rimborso automatico in caso di mancato riscatto al più tardi dopo 12 mesi. Anche queste sono indicazioni della Commissione Europea. I voucher possono essere un'alternativa valida al rimborso. Tuttavia i cittadini hanno il diritto primario di scegliere tra i voucher e il rimborso. Quindi non è La Commissione Europea dice non è che gli possiate offrire solo il voucher, non sei venuto quest'anno, lo puoi spendere il prossimo anno, la prossima stagione, e hanno diritto anche al rimborso. Da questo punto di vista, ed è l'ultima domanda che ho per lei, a me sembra che la stima di Confcommercio di 20% solo italiani che andranno in vacanza sia un po' bassa. Che cosa risulta dai suoi associati? Adesso bisogna capire se ci sarà questa del bonus vacanza, così come il governo si pone l'obiettivo di fare con questo decreto che dovrebbe essere in uscita a breve. Perché con il bonus vacanza, con soltanto in realtà disponibile per coloro che hanno un reddito ISE fino a 40.000 euro dall'ultima stesura, questo potrebbe mettere in circolazione un po' più di persone e quindi dare la possibilità di fare vacanze a qualcuno di più, considerato che noi turisti stranieri, soprattutto alla ripartenza, non li rivedremo e no. Quindi bisogna che compensiamo con la parte italiana. Mi auguro che sarà un po' più di questo 20%, però purtroppo i numeri sono bassini per il momento. Sì, lì poi c'è un altro tema, ossia quando, che è il tema delle frontiere, su cui tutti i paesi, come dicevo, sono ancora molto molto cauti e prudenti, soprattutto per quello che riguarda l'Italia. Berlino dice ancora presto aprire confini con Italia e Francia, l'Austria riapre i valichi minori ma non con l'Italia. Berlino dice l'obiettivo è comunque riaprire le frontiere il 15 giugno, ma perché dico è molto delicato? Perché non si capisce ancora se un conto è riaprire le frontiere, ma poi che cosa succede? Per esempio, leggevo, la Grecia sta dando delle indicazioni per cui tu devi, per volare in Grecia senza limitazione ai posti, cioè posti, non ci saranno posti separati negli aerei, in modo da permettere, sapete che la Grecia ha un grosso collegamento aereo in tutte l'arcipelago e le isole, però dovrei avere un certificato di negatività al virus fatto almeno 72 ore prima. Ora io non ho capito di che tipo, perché se è il tampone, la Grecia la rivediamo, visto l'andamento del tampone, la rivediamo fra un anno. Se è serologico, visto che la regione Lombardia dice si può fare anche con le strutture private, che infatti lo stanno già offrendo, ma serologico non ti dà una garanzia sulle ultime 72 ore, da quello che ho capito io. Poche idee ma confuse. Grazie anche alla vicepresidente di Feder Turismo Confindustria, bocca al lupo a lei e a tutti gli associati. Da noi il turismo pesa per il 13%. Faccio notare che nei paesi che si stanno muovendo, tipo Croazia e Spagna, il turismo sul PIL pesa molto di più, ma non è un buon motivo per non muoversi. Per Atene rappresenta il 20% del PIL, per la Croazia il 24%, per il Portogallo il 18%, per la Spagna il 15%, per noi il 13% del PIL. Traffico. Focus economia. Allora, siamo in grado di anticipare appunto il comunicato stampa del bollettino della Protezione Civile, dati di oggi. Allora, c'è una leggera crescita dei deceduti, sempre sotto i 200, ma questa volta 195. I positivi sono, sapete che i positivi contengono sia gli attualmente positivi che i guariti, che i deceduti, salgono a 222.000, insomma più 888, di cui attualmente positivi 78.400, sono meno 2.800 gli attualmente positivi. I decessi sono più 195 a 31.106. I guariti sono 3.500 in più e salgono a 112.000. Adesso guarderò il raffronto con le settimane, con i giorni precedenti. Mi sembra che i guariti siano alti, per fortuna, perché 3.500 è un numero ben più alto di ieri e dell'altro ieri, ma anche di domenica, come numero di guariti a tutte le serie storiche, per cui si fa presto qui. Sì, il numero è, confermo che è alto, fino, diciamo, non alto come il record di mercoledì 6 maggio, ma alto 3.500. I decessi sono più alti di ieri, che erano stati 172, dell'altro ieri 179, e di domenica 165, sono come sabato 194. Per fortuna resta tutta la settimana il dato sotto i 200, almeno quello, visto che la settimana precedente abbiamo avuto un dato che viaggiava stabilmente sopra i 200. E adesso devo vedere ancora i dati sulle terapie intensive, però vedo già che restano stabili i nuovi contagi a Milano, parliamo di Milano provincia, 105 in più contro i 136 di ieri, mentre Milano città ha fatto 63 contagi in più contro i 51 di ieri. Dati bassi a Bergamo, più 24 con nuovi contagi contro i 133 di ieri, e Brescia più 94 rispetto a ieri. Ieri erano stati più 128. Sono tutti sotto i 30 nuovi contagiati le altre province lombarde, quindi il dato lombardo resta sostanzialmente stabile sui nuovi contagi. Andiamo sul GR24 e poi diamo anche le percentuali, e torna l'indice, un indice dell'attività manifatturiera elaborato da Focus Economia, e poi il DL rilancio, DL maggio, DL aprile. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Cosa resterà di questa emergenza? Siamo davvero cambiati? Anche l'economia delle piccole cose guarda avanti. Tra conti da far quadrare e nuove abitudini da imparare. Sono Anna Migliorati, vi aspetto ogni sabato alle 7.15 qui su Radio 24 per ripartire insieme. Focus Economia. E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, le percentuali sui dati di oggi: i positivi sono calati del 3,45%, appunto meno 2.800, è un dato assolutamente buono, in linea superiore anche a quello di buona parte della settimana, di tutta la settimana, e buono e basta. I guariti più 3,2%, questi, allora sapete che i positivi però oscillano molto anche in base ai tamponi, mentre i guariti, i decessi no, i guariti sono più 3,2%, 3.500 in più, anche questo dato è buono rispetto all'andamento della settimana, superiore diciamo a tutti i dati della settimana, è buono anche relativamente alla settimana precedente, superiore alla media dell'aumento dei guariti della settimana scorsa. Il totale dei contagi, che cresce di 888, più 0,4%, è assolutamente in linea con quello della settimana, tra 0,6 e 0,4%. Anche i decessi, pur dovendo contare oggi quasi 200 decessi, 195, mantiene un incremento dello 0,6%, che è sostanzialmente in linea con tutta la settimana questa e la settimana precedente. Dunque, dicevamo invece del paese reale, perché? Perché abbiamo raccontato dei dati di oggi diffusi dal Ministero dello Sviluppo Economico, ma anche dal Medio Credito Centrale, per quello che riguarda le richieste, ma vi voglio ricordare le richieste di finanziamento: 175.000 domande al fondo di garanzia per un totale di 8 miliardi e 700 milioni, così dal 17 marzo a ieri. Era un lapsus freudiano, visto che mese è stato marzo. Dicevo, di cui la stragrande maggioranza di queste 175.000 richieste sono, ossia 150.000 sono per operazioni con finanziamenti fino a 25.000 euro con copertura al 100%. L'importo finanziato ad ora è di 3 miliardi e 150 milioni di euro di prestiti, e specifica il fondo di garanzia che l'intervento del fondo è concesso automaticamente, possono essere erogati senza attendere l'esito definitivo dell'istruttore da parte del gestore. Poi il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto notare che ci sono 8.500 domande in media al giorno per il fondo di garanzia. In alcuni giorni si è arrivati anche a 12.000 o addirittura 20.000 domande. E vorrei capire, i finanziamenti erogati dalle banche con il fondo di garanzia aumentano, lenti all'inizio, sostiene il Ministero, però adesso più pronunciati, bisogna continuare a monitorare la quota dell'erogato. E per i finanziamenti fino a 25.000 euro sono arrivate tante segnalazioni, anche perché c'è stato bisogno di un tempo di implementazione da parte delle banche, che spero e credo si stiano imparando. Però noi abbiamo un indice, l'abbiamo battezzato nel 2008 quando ci fu la crisi finanziaria, poi 2009, poi 2011, e l'indice Piccinelli, dal nome del titolare di una piccola azienda bresciana che noi usiamo come assolutamente empirico, non scientifico, indicatore, che l'idrobenne produce e commercializza accessori idraulici di presa per gru da camion e scavatori idraulici, esporta in 50 paesi, ha 15 dipendenti, fatturate e poco sopra i 2 milioni, ci sembra abbastanza rappresentativa della stragrande maggioranza delle imprese manifatturiere italiane. Ci eravamo sentiti con l'ingegner Paolo Piccinelli lo scorso 9 marzo, era appena iniziato il lockdown, la quarantena, diciamo, in Lombardia, Veneto, le regioni del nord, e stava per arrivare in tutta Italia. E poi operando a Brescia, immagino che la situazione sia stata poi molto pesante anche dal punto di vista personale. E ci aveva raccontato che il 2020 era partito molto bene, non avvertiva ancora nessun calo, anche perché loro facevano buona parte, i due terzi, in esportazioni, e usava già le mascherine, insomma, e aveva le postazioni separate. Vorrei capire com'è andata con, appunto, e ringrazio per essere tornato in collegamento, l'ingegner Piccinelli, titolare di Idrobenne, nostro indicatore empirico. Buonasera, ingegnere. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, sono contento di essere in trasmissione. Perché? Perché dopo che ci siamo sentiti sono tornato a casa, ho trovato mia moglie con la febbre a 39 e ci siamo fatti il Covid tutti e due. Ah. Ma lei è sicuro di aver avuto il Covid? Sì, perché ho fatto il sierologico e abbiamo entrambi gli anticorpi, però il tampone ufficiale ci è stato, ci abbiamo richiesto più volte e ci è stato negato. Cioè gli hanno detto di stare a casa, di monitorare la temperatura. Sì, a casa, prende la tachipirina, si procuri un saturimetro e buona fortuna. Ma questo erano, adesso non voglio giustificare nessuno, erano i giorni, le settimane terribili anche, sì, per Brescia. Sì, qui, allora, ricoverarmi 10 di marzo qui a Brescia significava probabilmente non uscire dall'ospedale vivo, quindi alla fine è stato meglio così, anche perché avendo due bambine di 9 e 11 anni a casa non sapevamo chi lasciare, quindi alla fine è andato tutto bene, non è stata una passeggiata, ma insomma, è passata. Beh, ma meno male, almeno questo, con quello che abbiamo visto a Brescia, Bergamo e buona parte della Lombardia. Senta, immagino che voi abbiate chiuso, come tutte le richieste arrivate anche... Sì, abbiamo chiuso, abbiamo fatto, come le dicevo nel precedente intervento, quello che ci hanno detto di fare, abbiamo poi riaperto il 14 aprile con la richiesta alla prefettura, perché molti dei nostri clienti lavorano a ciclo continuo, per esempio chi fa il riciclaggio di rifiuti oppure i cantieri ferroviari che non potevano stare fermi, quindi dovevamo tornare per le assistenze, per i ricambi, per le urgenze. Senta, il fatturato a marzo immagino che sia crollato, perché se avete macello, se avete meno chiuso... 70% rispetto a marzo 2019. E aprile? Aprile è cominciato zoppo, perché essendo ripartiti il 14 è cominciato zoppo e siamo a un meno 60, dall'inizio dell'anno meno 27, meno 28% rispetto al 2019. Senta, e l'andamento di maggio, anche se presto, però insomma maggio ha visto riaprire un po'... Allora, prima dell'epidemia noi lavoravamo 10 ore al giorno e anche il sabato. Adesso stiamo facendo le 8 ore canoniche, un po' perché le commesse sono diminuite e un po' perché vogliamo cercare di limitare i rischi. Perché Covid è Senta, lei sul lavoro. Lei aveva, se non ricordo male, una ventina di dipendenti, no? Siamo in 15. In sì. 15 dipendenti. Sì. Ne ha messi in cassa integrazione? Ha dovuto operare licenziamenti? Allora, quando abbiamo no licenziamenti, assolutamente no. Perché sono i ragazzi che lavorano per me, sono il mio patrimonio più di valore. E, abbiamo chiesto a loro cosa volessero fare, perché la realtà è piccola. Alcuni hanno scelto le ferie perché avevano tanti arretrati, altri hanno scelto la cassa integrazione. Cassa integrazione che però stiamo anticipando noi di tasca nostra, perché... Lei potrebbe aderire a quella non ordinaria, quella in deroga, immagino. Quella in deroga, sì. Sì, dove c'è un casino, ho visto che... assurdo. Sì, perché è pieno di procedure. Tra l'altro, ho visto che si era tentato di riformare, ma non è passata nel DL che adesso sta discutendo il Consiglio dei Ministri. Purtroppo, dopo la riforma del Jobs Act, si è tornati a una procedura molto macchinosa, no? per la cassa integrazione in deroga, perché poi deve passare attraverso le regioni Piccinelli, no? Sì, sì. E già all'inizio, quando era stato scelto questo strumento, noi avevamo capito che non avrebbe funzionato, e di fatto non ha funzionato. Non ha funzionato perché è lenta e faraginosa, avrebbero dovuto scegliere altri strumenti, insomma. Noi della potenza di fuoco promessa non abbiamo ancora visto niente. Ci hanno scaricato addosso questo Covid come infortunio sul lavoro. Sì, lo se so, un mio operaio questa sera va a fare una passeggiata e si ammala, io rischio il processo penale. Quindi no, questa è una il problema cosa, che hanno ribaltato addosso a noi, questa tutta la dell'infortunio sul lavoro è una cosa allucinante, lo dico sì, perché è voglio dire, nessun imprenditore sano ha interesse a far sviluppare un focolaio dentro la sua azienda, quindi, perché poi ti tocca chiudere comunque. E l'onere della prova è noi che dobbiamo dimostrare che non siamo colpevoli. No, io penso che sia allucinante questa cosa, perché in realtà, proprio per il tipo, l'incidente sul lavoro è chiaro che in altri casi è facilmente dimostrabile, e la responsabilità, se è venuto sul lavoro, è del datore di lavoro, qualora non avesse predisposto tutti i meccanismi di sicurezza. In questo caso, con un virus, io non voglio dare ragione a Piccinelli perché ce l'ho in collegamento, ma come fai a dimostrare che il virus l'hai preso al lavoro? L'hai preso perché sei uscito a trovare la tua fidanzata o la tua amante? L'hai preso perché avevi dei parenti anziani che ce l'avevano? Cioè, come fai a dimostrare? Non è un incidente, diciamo, ortopedico che avviene fisicamente nel luogo del lavoro, e allora poi dire: guardate, non erano ben segnalate alcune cose, colpa del datore di lavoro. A me sembra una follia. E l'ho detto più volte. Comunque, quindi lei come ha fatto in attesa della cassa integrazione in deroga? Allora, l'abbiamo anticipata noi, fortunatamente non sono tantissimi soldi, perché avendo 14 addetti, 4-5 adesso non mi ricordo esattamente, li abbiamo messi in ferie, e gli altri li abbiamo provveduto noi a pagarla, ecco. Fortunatamente negli anni scorsi è andata bene, abbiamo portato un po' di fieno in cascina, come si dice. E quindi per il momento non abbiamo dovuto ricorrere a strumenti finanziari straordinari, stiamo lavorando con i nostri soldi. Non so per quanto, perché la situazione non è affatto rosea, ecco. Molti nostri clienti sono ancora chiusi. Lei i prestiti li ha chiesti? Ha provato a chiedere i prestiti, quelli fino a 25.000 euro per 100.000 euro? No, perché francamente stiamo già lavorando tantissimo sulla burocrazia per le procedure anti-Covid, e affrontare un'altra raffica di documenti, di autocertificazioni per 25.000 euro, per il momento, finché non ci servono, non li chiediamo, ecco. Con gli istituti bancari troveremo, credo, altri canali per avere i soldi, insomma, nella maniera convenzionale. Abbiamo un buon rating, quindi Quindi con l'anomale canale bancario. Beh, oddio, guardi bene, però, perché le dico che i tassi praticati sono buoni sui 25.000, non devo farle io da consulente. Chiaro. Se deve fare un prestito con la banca, allora lo faccia con le garanzie dello Stato, glielo dico io. Perché il nostro problema è l'orizzonte temporale delle commesse, che si è forzato tantissimo, e il numero delle commesse. Però se poi la banca, se lei ha un buon rating, i primi due anni paga solo gli interessi, poi dal terzo paga la quota parte, diciamo, per i quattro anni successivi, più o meno, fino a un massimo di 6.500 euro, se non ricordo male, all'anno, cioè dei 25.000 che ha ottenuto. Mi dica un'ultima cosa, adesso che maggio è ripartito un po', lei che previsioni fa per l'anno? Perché lei non lavora nel settore turistico, non lavora nei servizi, non lavora nel commercio, non lavora in quei settori che io prevedo, avendo anche, essendo anche frutto di consumi e di atteggiamenti culturali, saranno in ginocchio per molto tempo. Lei lavora nel classico settore della manifattura, in cui fate fornitura, no? Sì, noi abbiamo un nostro prodotto, ma comunque è un prodotto che va incorporato in macchinari più grandi. Una subfornitura. Subfornitura. Ecco, che previsioni, se le riesce a fare, si immagina da qua a fine anno? Allora, se a me oggi dicessero firma per fare il 50% del fatturato dello scorso anno, io firmerei felice. Il 50? Sì. Io penso che non faremo la metà del fatturato dello scorso anno. Io spero invece che si sbagli, Piccinelli, poi la riavremo ospite. Spero di sbagliarmi anch'io, perché di solito sono ottimista, invece in questa situazione fatico molto adesso. Allora, nel ringraziarla, giustamente mi scrive un ascoltatore, quindi l'ingegnere Piccinelli, che si è ammalato di Covid, lavorando, dovrebbe denunciare se stesso. Sì, questa è la follia dell'idea dell'infortunio sul lavoro, che non è... A meno che tu, come Stato, non dica: bene, abbiamo decine di milioni di tamponi, ogni azienda può fare il tampone quando entra l'operaio e quando esce, allora sarebbe serio dire: bene, se si ammala quando esce è infortunio sul lavoro. Ma siccome non abbiamo i tamponi, non abbiamo i reagenti, e forse abbiamo l'accordo per le mascherine più volte annunciato e poi più volte saltato, mi sembra una follia. Non hai neanche gli strumenti per misurare se uno entra positivo o entra negativo. Comunque, al di là della temperatura, che come sappiamo non basta, in bocca al lupo a lei e a tutti i piccinelli di questo paese, visto che più del 90% delle imprese hanno le dimensioni sue nel manifatturiero. Grazie a Paolo Piccinelli, andiamo sul traffico. Focus Economia. Allora, è arrivato anche il dato invece sui totali dei ricoveri, meno 5,4%, 752 ricoverati in meno, e questi sono dati che non dipendono dai tamponi, e anche le terapie intensive, meno 59, meno 6,2%, dati buoni anche questi, perché sono sopra o più alti della media, e questi appunto non dipendono dai tamponi, ma dipendono da come evolve la malattia. Vedo molti messaggi su quanto ha dichiarato l'ingegnere Piccinelli, però andiamo al Consiglio dei Ministri, che è in corso, quindi non potremo dire molto se non fare un aggiornamento. Mi sembra che la novità principale che ha sbloccato questo braccio di ferro assurdo, ripeto, secondo me, sulla regolarizzazione dei cosiddetti invisibili, cioè gente che già raccoglieva la nostra frutta e verdura, era già presente, ma ce ne accorgiamo solo adesso che bisogna cercare di regolarizzarli, una follia. Allora, se ho ben capito, dovranno presentare un regolare contratto di lavoro stipulato nel 2019, e rientrano anche colf e badanti, e la durata dei permessi sarà di 6 mesi. Quindi, se ho capito, si restringe la platea, perché deve avere il contratto di lavoro del 2019, viene sospesa evitata la sospensione dei reati di favoreggiamento dell'immigrazione, sfruttamento e caporalato. Però è abbastanza onerosa la sanatoria, perché sono 560 euro per ogni lavoratore, un contributo forfettario di 400 euro per lavoratore, oltre a un contributo per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, e un altro contributo da 160 euro in capo al migrante che ottenga il permesso per 6 mesi. Alberto Orioli, vice direttore della 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Il tuo compito non è facile, ma te lo voglio sgravare, nel senso che ancora è in corso il Consiglio dei Ministri. Mi sembra che sta per cominciare, sì, convocato adesso, quindi adesso, mi sì. sembra che la Coldiretti dice non basta la regolarizzazione, serve il voucher. Io sono rimasto abbastanza schifato dallo scontro politico, tutto dovuto a tatticismi politici che bloccava un decreto da 55 miliardi, l'ho detto prima, ce l'ho con i 5 Stelle, quindi lo chiarisco molto chiaramente, per una battaglia che non ho capito sui braccianti. Ma al di là di questo, sbloccato questo, tutto il resto dell'impianto, da quello che abbiamo capito, dovrebbe essere confermato? Sì, fammi dire che sbloccato questo, nel senso che l'accordo è rimasto tale quale come era l'altra notte, quando poi i 5 Stelle lo hanno considerato irricevibile, è ritornato esattamente come era prima, almeno da quello che si comprende da queste indicazioni. Non ci sono testi precisi, ma insomma i capisaldi di quell'accordo 60 erano quelli, compresi i 400 euro a forfè da dare all'INPS da parte del datore di lavoro. Ora si vedrà, sì, la Coldiretti chiedeva i corridoi verdi, cioè per la possibilità di utilizzare gli immigrati comunitari, rumeni e bulgari. Scusami se ti interrompo, faccio notare che in Germania è partito la settimana scorsa un treno dalla Romania, proprio per badanti, non sto scherzando, hanno fatto un treno speciale, quando lo fanno i tedeschi ti preoccupi, ma in questo caso era dalla Romania verso la Germania, proprio di corridoi per badanti e lavoratori anche agricoli. Scusami l'interruzione. Loro come sempre sono tedeschi, sono più efficienti e sanno come portare a casa i risultati. Tornando all'impianto generale, dovrebbe essere quello che abbiamo abbondantemente anticipato sia per radio sia sul giornale, salvo un ultimo fuoco di paglia, per così dire, nel senso che c'è questa distinzione tra la sottosegretaria Guerra e Maratin, cioè l'EU e Italia Viva, sul tema degli sconti IRAP, nel senso che è uscita improvvisamente questa dichiarazione della Guerra che dice che è contraria a una generalizzazione dell'abbattimento della rinuncia a pagare l'acconto di giugno per tutti, ma deve essere calibrato solo a chi è effettivamente perso fatturato. Era la prima clausola che consentiva l'abbattimento dell'IRAP a chi avesse perso il 30% di fatturato, che poi è saltata. Ma evidentemente c'è un ritorno di fiamma, per così dire, rispetto a quel tipo di scrittura della norma. Si vedrà, perché non è una cosa banale per niente. No, anche perché è vero che alcuni settori possono... Io ho visto pochissimi settori non perdere fatturato. Perfino la distribuzione alimentare si lamenta di un crollo comunque dei consumi, però insomma, basta che non sia troppo penalizzante, cioè voglio dire, rischi di non sospendere l'IRAP a chi ha perso il 28% del fatturato, non mi sembra una gran idea, no? Perché infatti, tra uno che ha perso il 28 e uno che ha perso il 31 stai discriminando chi ha perso solo il 28%, tipo il nostro Piccini che abbiamo appena avuto nel mese, mi sembra di qualcuno che parli come sempre di fatturati di imprese senza averne mai frequentata una, lo dico perché non c'ho voglia. In questo caso vale per l'EU, non ce l'ho con i 5 Stelle necessariamente. Qui c'è troppa gente teorica che non ha mai messo piede in un'impresa in vita sua, neanche per fare una visita, non dico. Vabbè, superato questo scoglio, tutte le previsioni sono che il decreto venga varato, Alberto, nel concludere? Guarda, sì, tendenzialmente sì, tutti ci aspettiamo, siamo tutti attrezzati per ricevere finalmente questo decreto dopo così tanto averlo atteso. Che dovrà avere anche gli 800 euro diciamo, per le partite IVA del mese relative al mese di aprile, giusto? Teoricamente sì, se le condizioni che noi abbiamo conosciuto d'ingresso restano confermate, ci dovrebbero essere tutte queste cose di cui stiamo parlando da qualche giorno. Allora io ti ringrazio perché l'indennizzo delle 600 euro anche purtroppo non IVA, c'è la riforma della cassa integrazione in deroga, ci raccontava adesso Piccinelli che quanto è difficile, è praticamente un percorso a ostacoli richiedere la cassa integrazione in deroga visto il ruolo delle regioni. Alberto, grazie, ti riavremo chiaramente quando avremo anche elementi più fattuali e non continue anticipazioni. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.